America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Bene, anno della cultura italiana negli Stati Uniti. Qui ad America 24 avete ascoltato fin dall'inizio, anzi prima ancora che fosse lanciato questo straordinario progetto, un po' qual era l'impianto, quali erano le attività. Abbiamo parlato di mostre nei musei, abbiamo parlato della visita del ministro Terzi, abbiamo parlato di gastronomia, abbiamo parlato di letteratura. Avete ascoltato Gioacchino Lanza che ci ha raccontato quanto la letteratura italiana poi abbia un peso, una penetrazione negli Stati Uniti d'America. E dunque oggi voglio continuare e sfiorare un altro contesto che è molto italiano, perché lo spettacolo appartiene all'Italia. Pensate alle straordinarie rappresentazioni, che so, del Goldoni, pensate agli scritti del Boccaccio che sono stati talmente importanti per la formazione di una cultura, di una letteratura europea. E dunque è importante che la nostra cultura, la nostra letteratura lasci il segno da questo punto di vista. Chiaramente è difficile perché le nostre rappresentazioni teatrali sono in italiano, è difficile renderle e quindi diciamo siamo rimasti un po' indietro da questo punto di vista, se non fosse che un attore italiano si è inventato un modo per portare opere italiane negli Stati Uniti e fare delle rappresentazioni, pensate, che poi sono in lingua italiana, ma hanno tutta una serie di caratterizzazioni simboliche, gestuali, con la musica, che consentono anche allo straniero di capire esattamente che cosa è successo. Sto parlando di Massimiliano Finazzer Flori, un attore che ha portato vari spettacoli negli Stati Uniti, anzi ne abbiamo parlato, qualcuno di voi forse lo ricorderà tempo fa, perché, pensate, ha portato I Promessi Sposi. E dunque io con me ai microfoni di America 24 proprio Massimiliano Finazzer Flori, che porta un nuovo spettacolo negli Stati Uniti, Pinocchio, che devo dire è conosciuto, è vero o no? Buongiorno Massimiliano. Buongiorno a voi, certo, è il pezzo di legno italiano più famoso nel mondo, è un pezzo di legno su cui è stato scritto, come ricordava Benedetto Croce, la storia del rapporto tra libertà e obbedienza, valori, principi che proprio in America sono assai noti. E non dimentichiamo che poi è proprio l'America che nel 1947 realizza il primo prodotto di massa di Pinocchio, dopo Collodi, ovvero Disney, il film, per cui se vogliamo il nostro spettacolo teatrale è la versione colta negli Stati Uniti di un film di massa che ormai ha una sua storia. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Disney, avete sentito com'era negli anni 40 e com'è il suo? Che Pinocchio gli fa vedere agli americani? Il mio Pinocchio intanto è forse quasi meno importante di Geppetto. Io ho messo l'accento sulla figura del padre perché questa storia è la ricerca di un figlio del padre e al tempo stesso il fatto che questo oggetto, questo pezzo di legno diventa umano. Quindi lo spettacolo che noi facciamo vedere naturalmente è una performing arts, quindi coniuga tre arti diverse, la musica dal vivo al pianoforte, la danza contemporanea, quindi coreografie, e poi il lavoro sulla voce, anzi sulle voci che io ho in me mentre recito. Perché non dimentichiamo che Pinocchio è la storia di molte voci all'interno di un unico corpo. Molte voci, Massimiliano, ma ce ne fai sentire una di queste voci o un paio di queste voci così in diretta per i nostri ascoltatori? Questo legno le è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba de tavolino. Ecco qua, signori, Mastro Antonio che si presenta a noi, ma poi Pinocchio risponde: ah, smetti! Pizzicorino sul corpo! Certo, questo è Pinocchio, ma poi naturalmente c'è anche Geppetto che si presenta sulla scena. Buongiorno, Mastro Antonio! Cosa fate con sti per terra? Vogliamo dimenticare il gatto e la volpe. Ecco il nostro cano Pinocchio, come mai sei qui? Come mai sei qui? Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Beh, insomma, Pinocchio ha colpito l'immaginazione di molti. Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, Il gatto e la volpe, ecco, rappresentati in questa canzone che per la nostra cultura italiana ha fatto storia. Parliamo del gatto e la volpe, sì. Ma oggi chi sono? Ma mi verrebbe voglia di rispondere, sono la cattiva finanza, sono quei cattivi derivati finanziari che partono da un'economia priva di realtà. Non dimentichiamo che il gatto e la volpe, ovvero il cieco e la zoppa, cioè colui che non vede e colei che zoppica, che cammina male, sono, come dire, due figure non del male, ma che costruiscono il male. Dipende da noi cambiare questa sorte, evidentemente. Sappiamo che il gatto e la volpe verranno trattati in modo privo di pietà da parte di Pinocchio. Il nostro Pinocchio, di fronte al gatto e alla volpe, dirà: mascherine, addio mascherine, Mi avete ingannato una volta, non mi ripigliate più. Addio, mascherine. Se siete poveri, ve lo meritate. Addio, mascherine. La frina del diavolo va tutta in crusca. Addio, mascherine. Chi ruba il mantello al suo prossimo, per il solito muore senza camicia. Ecco come parla Pinocchio al gatto alla volpe. Quel gatto alla volpe che poco prima hanno fatto quella cattiva economia di prima. Ci hanno chiesto: ma vuoi che codeste quattro monete diventino 1000 e 2000? Vieni con noi al campo dei miracoli. E com'è possibile che quattro monete diventino 1000 e 2000 sepolte sottoterra? Insomma, questo arboscello dalle monete d'oro non esiste, evidentemente, ma esiste la terra. Ed è questo un valore reale contro il quale Pinocchio naturalmente pone la sua posizione. Bene, questo è il ritornello ricorrente nella tua opera e chiamiamolo un po' il ritornello della marachella. La sì. Marachella e poi la bugia, Pinocchio, insomma, gli si allunga il naso. Ecco, mi colpisce questa cosa perché incontrando qualche tempo fa il governatore, l'ex governatore di New York, Mario Cuomo, mi disse: ma insomma, qui oggi la politica poggia sulle bugie. La gente più le spara grosse, più la gente gli crede, li segue. Ecco, io credo che in Italia, in qualche modo, ma non in Italia, nel mondo, questa idea di fare delle grandi promesse sia diventato un po' un modus operandi. Non so se sei d'accordo, ma che cosa sono queste promesse? Sono delle bugie? Sono delle menzogne? Sono degli atti per illudere il cittadino? Io credo che i politici sono dei falsi bugiardi, nel senso che non credono a quello che dicono, ma sanno che la gente potrebbe credervi, e noi alla fine vogliamo credere a quello che ci conviene, e quindi in realtà tutto questo porta ad il risultato del nostro tempo. E dunque siamo dei burattini nelle grinfie di mangiafuoco? Tutti siamo più o meno burattini nella nostra vita, ma abbiamo la possibilità per un momento di riconoscere come salvarci. Vediamo un po' Pinocchio, che è il simbolo, insomma, della bugia. Qual è un punto chiave secondo te dell'opera in cui c'è questo rapporto tra bugia e come si collega secondo te con la politica del nostro tempo? In primo luogo credo che l'incontro tra Pinocchio e la fata sia emblematico. La musica che abbiamo sentito naturalmente ci fa pensare alla bugia come fuga dalla realtà. Quando incontra la fata, Pinocchio mente per tre volte, e ogni volta che mente il naso cresce sempre di più, fino al punto che Pinocchio non può più voltarsi da nessuna parte, perché a destra le pareti della finestra, a sinistra le pareti della camera, e se alza il naso corre il rischio di ficcarlo nell'occhio della povera fatina, e la fatina ride, e Pinocchio di fronte a questo ridere cerca di scappare, ma non vi riesce, perché il suo naso è cresciuto così tanto che non passava più dalla porta. Allora io dico che qui abbiamo dei segni importanti. Il primo: come si sconfigge la bugia? Con il ridicolo. La fatina ride e chi è bugiardo si vergogna. Ora però, se noi non ridiamo di fronte alle bugie e se chi è oggetto del riso non si vergogna, manca la sanzione e non si arriva alla verità. Seconda questione: la bugia ci produce claustrofobia, cioè la bugia ti chiude in un ambiente, ti chiude in una stanza e non ti fa vedere il resto. Larga parte dell'Occidente si è chiusa in una stanza. Cioè noi dobbiamo tornare di nuovo ad riaprire le finestre, riaprire le porte. Quindi questo è un punto molto importante. È chiaro che mi sembra piuttosto interessante nella storia di Pinocchio che Pinocchio si scontra di fronte alla bugia per la prima volta di fronte all'unica donna della storia, che è una fata. Ma guarda un po'. Quindi forse la dimensione femminile ci salverà. È una domanda. Forse abbiamo bisogno della donna perché l'uomo, il maschietto, il bambino in qualche modo ritorni a crescere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di Pinocchio, ma soprattutto abbiamo parlato di bugie. Perciò restiamo in tema con questa canzone dei Black Keys, Lies. The sun. In the sky, it hurt me too bad if you say goodbye. Lie, lie, lie, oh lie. Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.